Thank you.

Mando

Ad ogni fior, ad ogni fior, la rade, la rade. Thank you. sospeso, perché forse non sai, povero cuore, che chi è nato al pilar vive al dolore. La tua nemica sorte